Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16 e 34 minuti, Luca Tremolada al microfono, Nova Lab 24. Oggi parliamo dello stereografo, lo stereoscopista, nuovi mestieri. Si dice stereografo o stereoscopista? Stereografo. Stereografo è la parola giusta, ossia colui che lavora nel 3D, colui che lavora con la terza dimensione. Ci toglieremo tutte le domande che ci vengono in mente, ci spiegherà la mirabilia, la fantasilandia di questa nuova forma di comunicazione, ma prima le news. Google rilancia le funzioni avanzate della chat. La mossa del motore di ricerca intende dare fastidio all'instant messaging di Microsoft e Yahoo, nonché al software di telefonia via internet Skype. A partire da oggi, la chat inserita nel servizio di posta Gmail porta in primo piano tre pulsanti che consentono di accedere alle conversazioni vocali, audiovisive e di gruppo. Compare anche un menu a tendina per bloccare un contatto o scegliere di non registrare una conversazione. Social network. Sono 2 miliardi, 1,99 per l'esattezza, i messaggini scritti dagli utenti di Twitter a maggio. Ad attestare il traguardo è Pingdom, società svedese specializzata nel monitorare internet. I 5T transitati sul microblog il mese scorso, scrive l'azienda, sono stati 64 milioni al giorno, 2,7 milioni all'ora, 741 al secondo. Viaggiando a questo ritmo, Twitter ha raddoppiato il volume di messaggi in 6 mesi. Durante la fase REM, gli occhi seguono i movimenti dei sogni come se fossero veri. Lo hanno scoperto i neurologi dell'ospedale Petit Salpêtrière di Parigi, analizzando i movimenti oculari di pazienti che durante i sogni si muovevano mimandoli. Lo studio, pubblicato sulla rivista Brain, ha coinvolto 56 persone con il disordine del sonno e 17 soggetti con un normale sonno REM, durante il quale si ha una paralisi temporanea che impedisce di muoversi. Astronomia. Fra 200 anni, ma secondo alcuni già fra un secolo, il Sistema Solare entrerà in pieno nella cosiddetta bolla locale, una zona della Via Lattea che è una vera e propria fornace ad alto rischio per la pioggia di radiazioni cosmiche. Lo prevede la ricerca pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal Letters. Il Sistema Solare si troverebbe quindi sull'orlo di una gigantesca regione interstellare larga centinaia di anni luce, composta di gas rarefatto, turbolento e incandescente, e dove le temperature raggiungono milioni di gradi. Io, da buon maleducato, non ho presentato il nostro ospite. Si chiama Pietro Carlo Magno, è uno storiografo, giusto? Giusto. Ed è l'uomo che mi ha spiegato un po', insomma, tutti i segreti, quello che va, quello che non va, quello che è stato detto sul 3D, perché se ne sono detto un po' di tutti i colori. Innanzitutto, che cosa fa lo storiografo? Sì, insomma, il 3D ormai è esploso, e in modo anche direi un po' schizofrenico, nel senso che c'è chi ne parla sapendo di cosa stiamo parlando, c'è chi invece ne acquisisce subito un po' di informazioni giusto per... Ecco, tu, diciamo che tu lavori non per solo per il cinema, cioè cerchi di declinare la terza dimensione non solo in una chiave filmica, diciamo, ma anche per il business, per... Sì, perché di fatto, alla tua domanda, chi è lo stereografo oggi, essendo una figura nuova, è una figura che non deve soltanto fare il suo specifico lavoro, che potrebbe essere quello sul set, ma quello di aiutare un po' le aziende a creare business attorno a questo nuovo modo di comunicare visivamente. Quanto costa fare, cioè riprendere, anzi no, facciamo una cosa, mandiamo prima la scheda che racconta un po' il fenomeno 3D, poi mi spieghi bene quanto costa, che cosa ci vuole, insomma un bene. Po' tutto. Tutto ebbe inizio nel 2005, quando a Los Angeles George Lucas, Robert Zemeckis, James Cameron e Robert Rodriguez, ovvero i grandi registi di Hollywood, si presentarono alla stampa con occhialetti 3D. Era il segnale lanciato agli esercenti cinematografici americani che era giunto il momento di produrre film in 3D. Tre anni dopo, Nvidia ha lanciato il suo primo occhiale stereoscopico, nonché i driver consumer per giocare in stereo. Nel 2009 Sky TV inizia le prove di produzione e trasmissione di segnali stereoscopici. Contemporaneamente Sony, Panasonic e tutti gli altri grandi marchi cominciano a mettere in commercio televisori RIDI 3D di svariate dimensioni. Nelle sale cinematografiche il 3D è un successo, tanto da salvare l'intero settore dalla crisi. Il prezzo maggiorato per via degli occhialini garantisce alle sale l'ossigeno di cui avevano bisogno. James Cameron con il suo Avatar e le case di animazione fanno il resto. Il 3D entra così nella TV di casa e nei videogame. Secondo gli analisti, era quello che ci voleva per far tornare le persone a comprare elettronica di consumo. Sarà così? Sarà così? Ma direi che è centrata questa scheda. Infatti io ci credo. Ah sì, complimenti. Certo. Allora, ma è così? Cioè... Ma effettivamente è proprio così, nel senso che il primo boom è stato il cinema, dove il guadagno era, si sono triplicati di fatto lo sbigliettamento del singolo film, che tra l'altro usciva sia nella versione mono 2D, sia nella versione stereoscopica. E la stessa versione stereoscopica sbigliettava al triplo. Ecco, una cosa che volevo capire subito, cioè, se si sente parlare di tante tecnologie in campo, qual è il modo migliore di vedere la terza dimensione? Cioè, dove gli italiani possono vederla? Il luogo migliore in Italia sicuramente sono alcune sale cinematografiche dove gli esercenti, per investimento, perché ci hanno creduto nella stereoscopia, perché l'hanno vista loro stessi per prima di implementarla nelle proprie sale, hanno visto che la dimensione della proiezione ha la sua importanza. Nel 3D stereoscopico la dimensione ha la sua importanza. E quindi chi ha investito in proiezioni oltre 15 metri ha raggiunto un grande successo. Quindi vuol dire oltre 15 metri, vuol dire schermi più grandi dei 15 metri. Di larghezza almeno 15 metri, perché è la larghezza che crea stereoscopia, non è l'altezza. Ecco, già questo, quindi diciamo che molti cinema dicono di essere, di fare il 3D, ma che poi in realtà non è vero. No, è vero nella misura in cui... Però non è quello l'effetto, insomma. Nella misura in cui mostrare del 3D significa che una persona si siede in uno spazio e i suoi due occhi ricevono due immagini diverse. E questo di fatto è tutto il cinema 3D, che sia una sala piccola o grande, il risultato visivo c'è perché due occhi ricevono due immagini. Ma la larghezza di dimensione aumenta di fatto la profondità dell'immagine. Tra l'altro non dovrebbe cambiare nulla, tu mi raccontavi, se io sto seduto a lato, se sto seduto al centro, oppure invece cambia tutto. In realtà cambia tutto, ma naturalmente è un argomento scomodo agli esercenti. E cambia tutto perché? Perché se stai al centro... Essenzialmente sono due i cambiamenti che ci sono. Uno è dovuto al fatto di allontanarsi o avvicinarsi allo schermo. Più mi avvicino allo schermo, più di fatto lo spazio stereoscopico si comprime verso lo schermo stesso, mentre invece se mi allontano, mi metto in ultima fila, la proiezione si allunga di fatto nella sua profondità, evidentemente, perché la visione frontale dell'immagine resta tale. Certo. Mentre invece c'è anche un secondo, diciamo, peculiarità, non lo chiamerei difetto, comunque è una peculiarità dovuta al sistema intrinseco, non è una questione di tecnologia, quindi, come la prima, d'altro canto, che ho menzionato, è la visione laterale. La visione laterale crea una deformazione laterale dell'immagine, come se un cubo, di fatto, visto lateralmente, si deforma orizzontalmente. E questo è un bene male? Questo è un male, però all'interno delle sale cinema tradizionali non ci sono poche le sale che sono sviluppate molto. Ecco, quante saranno, insomma, senza fare i nomi, e poi uno ti contatterà, tra l'altro dov'è che ti si può raggiungere? Non l'hai ma detto? Mi si può raggiungere essenzialmente con... Non dare l'indirizzo di casa, dai solo sito. No, al massimo l'indirizzo dell'ufficio, ma comunque darei soltanto Carlo Magno, 3D.it con 3 scritto okay. Numero. Ecco, quante saranno le sale dove, insomma, uno può viversi un'esperienza in tre dimensioni sacrosanta in Italia? Ma allora, grandi cinema, allora, diciamo che ci sono circa 500 sale che proiettano in stereo 3D. Di sale buone ce ne saranno non più di 100. E per intenderci, ci sono delle sale, mi piacerebbe anche menzionarne qualcheduna, però comunque con proiezioni fino anche a 25 metri di larghezza. Ah, ottimo, per cui lì, insomma, lì va bene. E lì spacca. Lì spacca. D'altro okay. canto, da dove arriva? Dov'è l'esperienza prima stereoscopio? Dove la viviamo? Nelle sale IMAX. Sale IMAX proiettano con una pellicola da 70 mm in schermi che vanno sempre oltre i 20 metri di larghezza. Mentre sul televisore qual è la tua idea? Cioè, è un fenomeno di marketing, per cui, insomma, è come suggeriva la scheda, insomma, una nuova trovata dell'elettronica di consumo per vendere, poi si vedrà sicuramente in 3D, ma non è quello il luogo ideale dove si può apprezzare veramente la terza dimensione. Le verità sono, direi, due. Da una parte sarà una grande boccata per l'elettronica, la stereoscopia, anche a livello di consumer, macchine fotografiche, televisioni, eccetera eccetera. Resterà il fatto che essendo la stereoscopia, avendo la missione della stereoscopia quella di creare un'immagine verosimile, è chiaro che le scale sono importanti. Se io voglio veramente sentirmi un aereo che mi arriva addosso, questo aereo quando esce dallo schermo di fatto deve essere grande come un aereo normale, e dentro una televisione l'aereo è una miniaturizzata, quindi una rappresentazione miniaturizzata. Quindi di fatto le televisioni, per quanto 50 pollici, forse anche 100 pollici, creano un effetto teatrino. Non lo chiamerei nanismo, perché nanismo è un termine tecnico nell'ambito della stereografia, per cui non lo vorrei utilizzare. Utilizzerei il termine teatrino, cioè teatrino. Di fatto ci piace, dai. Nova Lab 24. Allora, prima di tornare sul concetto di teatrino, perché? Perché dovevamo tornare sul concetto di teatrino? Perché comunque le esperienze nelle televisioni 3D sono molto interessanti, legate soprattutto a certo tipo di eventi. Ah beh, no, certo. Infatti, come per esempio una partita di basket, è straordinaria una partita di basket vista in TV. Ecco, allora, noi però prima poi di tornare, ci siamo già tornati, per cui facciamo finta di niente, andiamo da Pierluigi Casolari di CoinUp. Buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, l'abbiamo già conosciuto. Ci colleghiamo con te perché stasera dove sarai? Beh, stasera mi piacerebbe molto andare a vedere il Machinima Sims Festival a Milano. Essendo io un appassionato di cinema 3D, di una nuova forma di animazione digitale che si chiama Machinima, non c'è occasione migliore, insomma, per vedere a che punto è lo stato dell'arte di questo nuovo filone di cinema digitale. Sì, tra l'altro ricordiamo, insomma, tu sei il fondatore di CoinUp, per cui il social network dei mondi virtuali in tre dimensioni, c'è cioè questo minimo link con il tema della puntata di oggi. Tra l'altro voi avete lanciato un'iniziativa. Sì, abbiamo lanciato un'iniziativa proprio per promuovere tutto quello che è il mondo del machinima, che appunto il machinima, ne abbiamo già parlato, è questa nuova forma di cinema digitale realizzato dentro i videogiochi. In pratica è una sorta di nuovo cinema underground fatto da creativi che utilizzano videogiochi e mondi virtuali, e noi per promuovere tutto questo filone di creatività abbiamo lanciato insieme a una software house inglese che si chiama MovieStorm un concorso per realizzare un filmato machinima della lunghezza di un minuto e raccontare una storia con questo nuovo genere appunto cinematografico. Quindi dai l'indirizzo internet per capire dove andare. Allora direi che le informazioni si possono trovare su CoinUp, quindi coinup.com, e sul portale si trovano poi tutti i link per entrare a vedere i film pubblicati nel concorso. Perfetto. O se qualcuno vuole addirittura partecipare, visto che è gratuito, il software è gratuito e ci si può divertire a costo zero. Grazie Casolari. Torniamo a Carlo Magno al 3D. Tra l'altro è arrivato Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova 24. Vuoi chiedere qualcosa sul 3D? Hai qualche domanda? Lui sa tutto. Ma non lo so, devo dire, il 3D incuriosisce e ovviamente gli interrogativi sono sempre gli stessi: fa male la testa, fa venire la nausea e così. Ecco, ma come prospettiva, il 3D servirà al consumatore? Io ho la sensazione che rimanga un prodotto di nicchia dal punto di vista del consumer e delle televisioni, così invece abbia altre applicazioni che potranno essere assolutamente straordinarie. Beh, secondo me invece il settore consumer, nella misura in cui sarà facile riprendere come oggi. Lei non si contraddice, un vice caporedattore, per cui risponde come credo che sia un'impressione. Però facciamo così. Le ricordo che io sono un stereografo indipendente, come tale, finché non vengo, diciamo, arricchito da un singolo soggetto, ho la libertà, anche se con un po' di attenzione, di parlare. Sì, e di fare anche un po' di informazione, perché comunque per l'appunto siamo anche in una fase in cui la gente non gli è magari chiaro alcuni fondamentali sulla stereografia. Ecco, però la domanda di Pierangelo è: ci saranno altre applicazioni, nuovi campi? Che cosa prevedi? Secondo me innanzitutto tutti i campi dove già esiste il concetto di 3D, come può essere quello di cui avete appena parlato, nel momento in cui verrà mostrato stereoscopicamente, verrà riprodotto di fatto nel modo in cui è stato costruito. Quindi social network 3D, cinema tridimensionale, come può essere questo festival, praticamente gli manca la possibilità di dimostrarsi. Quanto costa una telecamera? Nella sua progettazione, che di fatto è già 3D, è già tridimensionale. La domanda è molto secca: quanto costa una telecamera stereoscopica? Dunque finalmente, in realtà per me è più un problema che un'opportunità. È uscita una prima camera stereoscopica prosumer della Panasonic che costa sui 20.000 euro circa. Se vogliamo parlare di prodotti consumer, che sono quelle che hanno i due occhi, no? Che hanno di fatto le due ottiche. Però ecco, se vogliamo agganciarci a quella che è l'attività dello stereografo, chi è lo stereografo? Qual è il suo compito all'interno di una produzione? È quello di creare innanzitutto un film che non crea affaticamento visivo. E l'affaticamento visivo di fatto è rischioso in qualunque momento, perché l'esperienza stereografica non è un'esperienza naturale. E noi l'abbiamo detto, noi l'abbiamo già raccontato, già mi scritto, pare, no? Quindi bisogna muoversi con una certa cautela. E poi dall'altra, però, lo stereografo è quello che lo fa diventare un linguaggio, la stereografia, per cui muovendo l'interasse, no? Cioè la distanza tra queste due ottiche che riprendono, crea l'effetto a profondità. Allora, questa profondità può essere tanta o poca. Comunque per la parte creativa, questo è perché lui cerca di metterci uno contro l'altro, ma effettivamente, cioè, secondo me il 3D sarà per la parte creativa una grande opportunità, insomma. Questa è la questione, cioè vedremo quanto la stereografia potrà investire cinema, anche di, come può essere una commedia, come può essere un film d'arte, eccetera eccetera. Perfetto, Pierangelo, visto che parliamo di cinema, di 3D, di occhi, di sguardi, torniamo sulla singola dimensione, sulla carta, sulla misera carta, anche se sogniamo con un 3D, nel senso che parliamo di giovanissimi, che tra l'altro, se non mi ricordo male, sono anche passati qui dalla radio, nel senso che parliamo dell'ISEF, che è il festival, i ragazzi dell'ISEF, è questo diciamo fiera dell'innovazione, dell'invenzione dell'Intel, che sono andati poi in terza, che sono minorenni. Giovanissimi, così c'erano anche un team italiano, hanno presentato, erano 1600 se non mi ricordo male, ricordo da tutto gli ascoltatori, era il progetto quello sui fiumi, non ha vinto nulla, però è stato già un successo arrivare lì. Devo dire, noi ne parliamo raccontando un po' di storie di giovani scienziati, ma soprattutto per capire perché bisogna investire sui giovani e perché bisogna investire sull'innovazione. Tra l'altro, la domanda che per esempio ci poniamo all'interno di questa copertina è: come si educa l'innovazione? Nel senso, vedendo questi ragazzi, sono 1600 da tutto il mondo, l'Italia poco presente. Come si educa l'innovazione? E qual è la risposta? Forse recuperando la capacità proprio dei fanciulli, dei bimbi, di creare, di innovare, così, ma proprio nei primi anni di vita. Vedo tra l'altro delle bellissime foto su Nova, che uscirà domani in edicola con Il Sole 24 Ore. Foto in 3D, battuta lampo. Foto in 3D è un'esperienza interessantissima, perché tu di fatto hai delle immagini still che però poi vai a vivere nella loro profondità. Quindi c'è ed è un ottimo strumento per raccontare gli spazi. Quando perché la vedremo? Perché di fatto l'immagine è ferma, ma tu la percorri nella sua profondità. E quando la vedremo? Sui giornali? Sui giornali la vediamo già subito, perché è già uscita in tecnologie anaglifiche, stampe sono già uscite, anche Playboy adesso esce di nuovo. Ecco, fermiamoci qua. Grazie di essere stato con noi. E col Playboy in 3D ci certo, fermiamo. Meglio. Domani 16:30, Nova Lab 24, grazie a tutti. Buonasera. Nova Lab 24.